Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi è Sant'Ambrogio, i milanesi sono in festa, ma festeggiano anche tutti coloro che, approfittando della festa dell'Immacolata, si sono regalati un bel ponte che per tradizione segna un po' l'inizio della stagione sciistica. Sono in tanti ad averne approfittato, più di 6 milioni secondo i dati di Federalberghi. Allora, se siete tra questi, se state partendo, siete in viaggio, chiamateci, siete invitati a fare i nostri inviati. Allora, 800 24 00 24 per partecipare alla nostra diretta. Intanto vi anticipo brevemente i temi di oggi. Andremo sulle piste con un esperto che ci darà alcuni preziosi consigli per sciare in tutta sicurezza e con grande soddisfazione, senza far scivolare via dal nostro portafoglio troppi denari. Per la parte di cuore invece ci occuperemo di un'articolazione che viene molto sollecitata da chi pratica sci. Ci occuperemo del ginocchio dello sciatore, ma anche quello della lavandaia, del corridore, perché questa articolazione non fa preferenza, mette in ginocchio anche il Papa, che, come avrete letto, ha deciso di pregare da seduto proprio perché il suo ginocchio gli fa male. Sportivi o non sportivi, giovani e meno giovani, oggi facciamo un salto sulle piste e poi torniamo a casa a lamentarci di quel dolore al ginocchio che chissà come mai proprio non se ne vuole andare. Fiocca, fiocca, la neve. Fiocca, fiocca. Speriamo che questa neve fiocchi, ma in attesa delle grandi nevicate tutti gli appassionati di questo sport sono già pronti al cancelletto di partenza, perché la voglia di sciare è più forte del meteo e della poca neve. In questa prima parte, come anticipato, andremo sulle piste per sciare in tutta sicurezza, preservando un po' anche il nostro portafoglio. Voi quanto spendete in media per sciare? Quali località frequentate? Portate il pranzo al sacco oppure preferite fermarvi in baita? 800 24 00 24. Tra le voci di spesa c'è il ticket dell'impianto, certo, ma anche l'attrezzatura, che va acquistata in alcuni casi o rinnovata in altri. Attenti, perché da quest'anno c'è un nuovo costo che dovrete mettere in conto, anche se naturalmente non ve lo auguriamo. Anche i soccorsi in caso di infortunio in molti comprensori ormai si pagano anche con alcune centinaia di euro. Partiamo da qui allora, ascoltando questa scheda. Cucuzzolo della montagna. Sugli sci, essere prudenti conviene, anche dal punto di vista economico. Sono sempre di più, infatti, i comprensori che applicano un costo in caso di soccorso per chi necessita di farsi venire a prendere in seguito ad un infortunio sulle piste. Succede già sull'intero territorio della Valle d'Aosta, dove il ticket è di 200 euro, ma anche in Trentino Alto Adige la pratica è ormai diffusa e sono molti i gestori italiani che presto potrebbero applicarla. Tra le cause troviamo il venir meno di contributi pubblici che in passato supportavano questo tipo di servizi. Quella dei soccorsi gratuiti era ormai un'anomalia italiana. Chi scia al di là delle Alpi paga già da tempo e in Francia, Austria e Svizzera i costi sono ben più salati di quelli applicati da noi. Unico modo per evitare di aggiungere al danno di una caduta la beffa di un conto da pagare è quello di stipulare un'assicurazione. Esistono anche polizze temporanee che potrebbero rivelarsi particolarmente adatte a chi mette gli sci ai piedi. E noi mettiamo gli sci insieme a Claudio Primavesi, direttore di Reski Magazine e Ski Alper. Buongiorno e benvenuto, Claudio. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno ai radioascoltatori. Claudio, uomo avvisato, mezzo salvato e meglio se assicurato, mi verrebbe da dire, anche e soprattutto per lo sci. Ma sicuramente sì, appunto, avete già detto tutto e molto bene nella scheda. Diciamo che l'Italia era un po' un'isola felice dove il soccorso in pista non si pagava. E piano piano, insomma, ecco, non siamo più anche noi un'isola felice, quindi è sempre meglio spendere. Ci sono delle polizze che si comprano con lo ski pass che costano 2-3 euro, che valgono chiaramente solo per il giorno, quindi magari hanno anche dei valori più limitati, però insomma mettono al riparo da tante sorprese. Quindi questo è un tuo consiglio, formule giornaliere acquistabili con lo ski pass che ci tutelano. Ma diciamo che la formula più pratica per chi magari non ha un'assicurazione infortuni, arriva in località e all'ultimo minuto, senza doverci pensare prima, può coprirsi da determinati rischi. Poi è chiaro che le polizze infortuni di solito contemplano lo sci in pista, magari hanno delle esclusioni, certo, fuori pista, attività più pericolose. Ecco. Comunque, occhio se si va all'estero, possiamo aggiungere anche questo, questa, no, sottolineatura. Ma sì, sì, sicuramente, anche perché poi all'estero in alcune località interviene molto facilmente l'elicottero, anche per casistiche dove magari invece in Italia si interviene col toboga, e ogni minuto di elicottero ha dei costi veramente elevati, per cui anche in quel caso, se non si ha un'assicurazione, poi dopo, insomma, certo, oltre a pagare la vacanza si paga un conto molto salato. Senti Claudio, prospettive di questa stagione in attesa, devo dire, di neve? Ma allora, le prospettive secondo, diciamo, alcune indagini di mercato sono molto buone, perché c'è un, ci sono dei dati dell'osservatorio Skipass Panorama Turismo che parlano addirittura di un'attesa di un circa un più 7% sia di presenze che di fatturato, questo parlando chiaramente di tutto l'indotto. Certo. E diciamo che la montagna comunque anche in questi anni di crisi tutto sommato si è salvata un po' per ha tenuto, gli stranieri, come se, direbbe Deborah, ha tenuto proprio, infatti. E il problema in questo momento, sì, chiaramente è che non, fondamentalmente non c'è neve in giro, quella poca è stata sparata dai cannoni, però insomma speriamo in bene, ecco, speriamo che nevichi. Naturalmente, speriamo che nevichi, ma Claudio, guardiamo anche i costi, no? E ogni anno puntualmente ci si lamenta sempre del caro ski pass, però qualche cosa si potrebbe fare. Ma sì, io vado un po' controcorrente in questa, no? Non sono un proprietario di impianti, quindi non devo difendere gli interessi. Non hai neanche cugini, parenti? Neanche, infatti. Va bene, allora anche possiamo fidarci. È il lavoro che avrei voluto fare il direttore di stazione sciistica. Però devo dire che effettivamente è facile lamentarsi, perché comunque spendere 40-50 euro per andare a sciare un giorno, poi se sei in famiglia e prendi il panino, la polenta, già solo per una giornata sugli sci vanno via tanti soldi. Però effettivamente i costi che ci sono dietro alla gestione della località sciistica sono veramente elevati, e soprattutto appunto viste le tendenze climatiche si è aggiunto il livello programmato che ormai copre quasi il 100% delle piste ovunque, e quindi comunque quei costi sono giustificati. Chiaro che a tutti noi in questo momento tirare fuori quei soldi non fa piacere. Ci sono però appunto con un po' di accortezza un po' di trucchi. Intanto, e allora eccoci qua pronti per la pagina di denari, trucchi per sciare in sicurezza con soddisfazione ma senza spendere troppo, approfittando delle offerte magari. Infatti diciamo che ci sono anche diversi siti ormai che pubblicano tutte le offerte più scontate, e sicuramente scegliendo un pacchetto tutto compreso, comprende l'albergo o meglio ancora l'appartamento, che in questo momento è una delle formule che va di più in montagna perché costa di meno, sì, e lo ski pass si risparmia. Ci sono stati dei casi di località sciistiche, l'anno scorso ricordo lo fece Monte Campione, che misero diciamo una certa serie di ski pass su Groupon. A prezzi molto molto convenienti, infatti andarono a ruba, e questi sono sicuramente i primi trucchi. Poi è chiaro che per esempio ci sono località che propongono, per chi può permetterselo, invece del weekend, diciamo i 2-3 giorni dal lunedì al giovedì in settimana, e anche in quel caso si scende di prezzo. E l'altro consiglio sicuramente è che ormai statisticamente uno compra il giornaliero, però quando si scia 2 ore è sciato veramente tanto, diciamo 2 ore. Soprattutto quando si riprende, è difficile riuscire, almeno anche gli esperti dicono, mi raccomando, iniziate con gradualità. Infatti, però diciamo che anche lo sciatore, quello che insomma si mangia proprio le piste, il tempo effettivo di sci è di qualche ora, alla fine poi uno ci mette il rifugio, eccetera, eccetera, ci sono diverse località che offrono gli ski pass a ore. Ed è una buona, no? Una buona offerta. Senti, parliamo rapidamente dell'attrezzatura. Allora, anche sull'attrezzatura ci sono un po' di dritte. Intanto, diciamo che il nostro difetto di italiani non solo nello sci, ma è quello sempre di cercare l'attrezzo del campione, anche se poi campione non siamo, e quindi lì si va a spendere tanto e poi non ci si diverte, perché chiaramente sono attrezzi magari più difficili. Quindi il primo consiglio è sicuramente di farsi consigliare bene da un esperto, da un negoziante, prendere un'attrezzatura adatta al proprio livello. Sì. E si possono trovare anche, cioè se uno guarda i listini degli sci si spaventa, in realtà il prezzo che realmente viene praticato è di solito un 20-30% inferiore, e per cui si può trovare già un'attrezzatura top di gamma, sci, attacchi intorno anche ai 600 euro. E invece diciamo attrezzatura di medio livello si arriva anche sui 300 euro, 350 euro, si può trovare già qualcosa di decisamente valido. Però sicuramente, ecco, per lo sciatore che va a fare la settimana bianca una volta all'anno e al massimo un weekend, può essere utile prendere in considerazione il noleggio, che una volta era considerato e non si noleggiava perché fondamentalmente si prendeva attrezzatura vecchia, scadente. Invece adesso ci sono diverse catene di noleggi che offrono attrezzatura, addirittura già a gennaio, a febbraio si può provare l'attrezzatura dell'anno successivo in alcuni casi. E sì, in questo caso si può andare anche dai 10-15 euro dell'affitto del set completo giornaliero fino a 60, 70, 80, 100 euro a settimana se proprio si va sul top di gamma. Ci sono peraltro anche c'è la possibilità di prendere l'attrezzatura a inizio stagione pagando qualche centinaio di euro e poi a fine stagione riscattarla pagando la stessa cifra. Comunque insomma sono, e oltretutto si ha sempre un'attrezzatura perché si può portarla a noleggio, quindi sempre preparata adeguatamente, perché anche la preparazione è molto importante per la sicurezza. Assolutamente, ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori. Carmelo mi sta già facendo segno che è pronto, sono pronte le informazioni sul traffico, ma prima di salutare Claudio volevo leggere Andrea che ci manda un messaggio su Twitter: viva lo sci di fondo, salutare sostenibile economico e ci si fa meno male. Su WhatsApp Emiliano della provincia di Chieti: per abbattere i costi mi sono attrezzato con ciaspole, tavola a spalle in salita e poi discesa con tavola ai piedi. Sulla Maiella uno spettacolo, dedicheremo naturalmente una puntata alle ciaspole che è un nostro classico di questa stagione. Grazie Claudio per essere stato con noi, ricordo Claudio Primavesi, direttore di Race Ski Magazine e Ski Alper. Grazie e buona sciata. Nicoletta, buone sciate a tutti. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Cuore e denari. Mi sprofondai coscienziosamente in tutte e 26 le lettere e arrivai alla conclusione che l'unica malattia da cui ero esente era il ginocchio della lavandaia. Questa scoperta al primo momento mi lasciò piuttosto deluso. Mi parve quasi un affronto. Perché mai non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa invidiosa eccezione? Ma dopo un po', grazie a Dio, prevalsero sentimenti meno avidi. Ebbi così la possibilità di riflettere che avevo tutte le altre malattie conosciute dalla farmacologia. E così mi sentii meno egoista e decisi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. Ma è molto probabile che Jerome, essendo scrittore, soffrisse di ginocchio da scrivania, che si aggiunge a quello della lavandaia, del corridore, dello sciatore. La causa? Beh, per i primi due, per quello della lavandaia e del corridore, la mancanza frequente, in chi sta seduto ore e ore davanti a un PC, di movimento. Per sapere se siete a rischio, una domanda molto semplice: sentite il bisogno di stendere ogni tanto la gamba per trovare sollievo? Intanto provateci. Per quanto riguarda il ginocchio dello sciatore, beh, ne parleremo naturalmente se siete reduci di un infortunio, se l'anno scorso sciando avete avuto qualche problema il vostro ginocchio e vi state ancora lamentando, fatelo al nostro numero verde 800 24 00 24. Di tutte le nostre ginocchia si occuperà oggi il nostro esperto, il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora professore, abbiamo aperto la puntata sulle piste. Qualche indicazione per chi sta per partire? Con i dovuti scongiuri, prima, naturalmente, perché degli ortopedici non vorremmo aver bisogno. Prima stavate dicendo che bisogna iniziare gradatamente, ma dico che bisogna anche finire gradatamente, nel senso che molto spesso ci si stanca e alla fine, quando si è stanchi, se non si fa attenzione è più facile avere dei traumi. Diciamo che mi piacerebbe ricordare un po' quello che conviene fare, poi dopo parliamo delle cose positive. Quando ci si fa male, è chiaro che bisogna andare nel pronto soccorso immediatamente, deve essere fatta una radiografia, questo è molto importante perché spesso ci si dimentica, si pensa subito a fare la risonanza poi appena possibile, ma bisogna escludere che non ci sia qualche cosa di importante a livello delle ossa, cioè una frattura che può non essere immaginata in relazione al tipo di trauma. Quindi sempre la radiografia. Sempre un esame radiografico, dopodiché seguire le indicazioni del pronto soccorso. È importante importante comunque che si segua poi le indicazioni del medico dal quale voi poi sarete curati. Cosa voglio dire? Voglio dire che ognuno di noi ha un po' un suo criterio di trattamento dei traumi, e quindi se seguiamo le indicazioni del pronto soccorso, che sono delle indicazioni magari anche precise, ma non ci facciamo vedere subito dal medico che poi ci seguirà, ci si potrà trovare, il medico si potrà trovare anche un po' in difficoltà, perché magari non avrebbe fatto quel tipo di trattamento e ne avrebbe fatto un altro. Quindi fatevi vedere immediatamente dal medico che poi vi seguirà e seguite poi le indicazioni. A meno che non si viva o non ci si rimanga a lungo in montagna, allora ovviamente si possono seguire le indicazioni del pronto soccorso. Stefano ci sta ricordando via WhatsApp che c'è anche il ginocchio dell'idraulico. Ci sono tanti, no? Della lavandaia, dell'idraulico, del corridore, sì, dello sciatore. E lavandaria, non perché lavandaia, c'è l'acqua, non perché c'è l'acqua, però ma sono molto simili. C'è, esatto, anche poi il ginocchio del cinema, no? Vedi? C'è anche il ginocchio del cinema, però mentre il ginocchio della lavandaia è conseguente al lavoro che fa la lavandaia o l'idraulico, il ginocchio del cinema è la conseguenza di una patologia. Cioè, se si ha un dolore al ginocchio legato all'articolazione che c'è tra rotula e femore, questo può dare una sintomatologia sgradevole quando si rimane a lungo col ginocchio piegato. E allora ecco il ginocchio del cinema. Questi pazienti vanno a cercare di solito dei posti molto laterali per poter allungare il ginocchio, che dopo un po' dà fastidio. Succede anche in treno, ho notato, perché sì, molte persone che si mettono verso il corridoio proprio per allungare la gamba. Ci faccia caso, 800 24 00 24 per lamentarvi le vostre ginocchia, come fa Rachele, che ci chiama da Brescia. Buongiorno Rachele. Buongiorno e buona giornata a tutti. Anche a lei. Buongiorno Rachele. Avevo solo un consiglio: siccome sono un paio di giorni che mi è venuto un dolore al ginocchio destro, faccio fatica a salire le scale e scendere, e si è leggermente gonfiato dentro, diciamo, ma poco poco. Ho chiesto al medico, mi ha dato l'occhi da prendere e mettere il Voltaren come pomata. Cosa mi dice? Cosa mi consiglia? Ma io direi che le indicazioni sono corrette. Faccia, sì, per 2 o 3 giorni quello che le ha detto il medico. Dopodiché, sì, se tutto passa, perfetto, è andata bene e non ci, sì, interessa sapere cosa ha avuto. Se non passa, bisogna farsi vedere dallo specialista facendo, come dicevo prima, sia una radiografia che una risonanza magnetica. Professor D'Anchise, oggi noi vogliamo mettere in sicurezza le nostre ginocchia, naturalmente, che sono sottoposte a tante sollecitazioni, no? E nello stesso tempo cercare di dare una causa a quel dolore al ginocchio, che noi genericamente diciamo male al ginocchio, però per un esperto, no, va un pochino più dettagliato. Dove avete male, quando, durante il movimento, quando state fermi, nella parte anteriore, nella parte posteriore. Lei ci aiuta, ci impresta come, diciamo, il suo occhio clinico per venire a capo del nostro problema, soprattutto capire per poi prendere magari dei provvedimenti e delle decisioni. Allora, per prima cosa bisogna capire se c'è stato un trauma. Ovviamente il trauma può essere un elemento importante, e il tipo di trauma, come è avvenuto, che tipo di disturbo ha dato immediatamente, è importante. Ma credo che questo si fa un po' riferimento. Esiste una patologia, esistono delle patologie del ginocchio che si manifestano indipendentemente dal trauma, e sono fondamentalmente, io le potrei considerare 2 grandi categorie: quelle che riguardano l'osso e la cartilagine, e quello che riguardano i menischi. Sì. Quindi la cartilagine si può consumare in conseguenza di un vecchio trauma che noi possiamo anche aver dimenticato. Questo è un elemento importante. Quando si va dal medico avendo un dolore al ginocchio, bisogna cercare di memorizzare bene cosa è accaduto nel passato e di riferirlo, perché ci sono delle situazioni che possono aiutare a far capire come mai si ha quella sintomatologia. Dopodiché, dicevo, quindi cartilagine che si può consumare. La cartilagine è il tessuto che riveste l'articolazione e che si può consumare. L'altra patologia importante è quella dei menischi, che possono essere rotti per un trauma, cioè per un movimento brusco, non necessariamente un trauma, o per usura. E poi c'è il grande capitolo dei legamenti. che è traumatico. Sì. Indubbiamente il legamento che si rompe più facilmente di tutti è il legamento crociato anteriore. Allora, ginocchia dei sedentari, ginocchia degli sportivi, per chi va a sciare, perché non ci pensa, 800 24 00 24. Per gli sportivi all'ascolto, un grande campione, Stefano Baldini ci raggiungerà tra poco, dopo il GR. Cuore e denari. At night we ride the mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected, and stepping out over the line. Oh, oggi sto correndo da sola, ma Deborah domani tornerà qui con noi. E proprio a proposito di corsa, il pensiero va agli sportivi, soprattutto a chi corre, a chi scia e alle loro ginocchia. Per loro questi sono tempi duri, o meglio ricchi di tante sollecitazioni. Naturalmente ci occuperemo delle ginocchia di chi sta tanto seduto, magari alla guida, come i nostri amici camionisti che ci seguono numerosi. Vedo anche alcuni messaggi al 349-238-6666. Qui in studio con me il professor Roberto D'Anchise. Professore, abbiamo detto che abbiamo parlato di dolore al ginocchio, questo è il tema della seconda parte di Cuore Denari. A provocarcelo può essere una caduta sugli sci, un'attività usurante, la sedentarietà, gli anni, insomma le cause possono essere tante, diverse. Per fortuna le ginocchia sono due, no? E quando si sostengono un po', anche il Papa deve pregare da seduta, l'abbiamo letto, perché pregare in ginocchio gli procura dolore. Che cosa ci racconta questo dolore? Localizziamolo e quali dettagli lei ha bisogno per darci una mano? Allora, innanzitutto Springsteen è il mio preferito, vabbè, ma questo, ecco, non c'entra e niente. E ha delle ginocchia fantastiche. Ha ginocchia fantastiche. Ed è un gran bel uomo, e chiudo questo, qua. Vabbè, finiamola lì. Dicevo che è importante il punto del ginocchio dove si ha dolore, ed è importante quando questo ginocchio fa male. L'articolazione del ginocchio è un'articolazione complicata, quindi abbiamo detto che sarebbe nata per non stare insieme. Esatto, perfetto, perché ci sono delle superfici convesse che sono appoggiate su una superficie piatta, e come facevano a stare insieme non si sa. Allora, chissà cosa stava pensando, esatto, quel giorno. Hanno dovuto metterci dentro un po' di roba, legamenti, menischi, e sono tutti elementi fondamentali. Quindi quando noi per esempio dobbiamo togliere un menisco perché si è rotto, purtroppo quel ginocchio comincia a lavorare male, ed è per questo che noi cerchiamo sempre di risparmiare menischi, ricucendoli se possiamo, facendo attenzione, aspettando prima di decidere di rimuovere un menisco. Quindi sono situazioni che dobbiamo tenere ben presente. Quindi dicevo, sede del dolore è quando fa male, queste sono le situazioni più importanti, e considerare anche se questo ginocchio tende a gonfiarsi oppure no. Questi sono gli elementi a cui far riferimento. Andiamo a Stefano che ci chiama da Roma, vediamo come stanno le sue ginocchia, che cosa ci racconta. Stefano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Purtroppo le mie ginocchia stanno male. Tutte e due? No, una. Insomma, solo la sinistra, però basta e avanza finché... Quanti anni ha? Prima domanda. Grandi problemi, insomma. Allora Stefano, il professor D'Anchise vuole sapere la sua età, perché è un po' curioso, ma vabbè, dai, lo accontentiamo. No, io ho 54 anni, ma ho sempre fatto sport, e purtroppo 2 anni fa durante una partita di calcio ho riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Sì. Con interessamento dei 2 menischi, quindi insomma una situazione piuttosto delicata. Io per paura, diciamo così, non ho fatto l'operazione di per il crociato. Del crociato, sì, della ricostruzione, sì, del legamento, certo, ma soltanto un'operazione, diciamo, di routine, di pulizia. È evidente, adesso non posso più giocare al calcio, non posso sciare, non posso giocare a tennis, tutte le cose che amavo fare, insomma. Però può ascoltare Cuore Denari, vede che la tiriamo su. Professor D'Anchise, non so come posso aiutarla, nel senso che bisogna vedere come mai ha fatto questo intervento? Perché probabilmente lei aveva già una situazione di usura della cartilagine, forse per l'importante attività sportiva che lei ha svolto, perché diciamo che a posteriori, dovendo fare un intervento, forse sarebbe stato bene fare tutto, fare sia il crociato che i menischi, se l'articolazione era un'articolazione in buone condizioni. La rottura del crociato anteriore di per sé non è un problema, nel senso che si può svolgere una vita assolutamente normale con un crociato anteriore rotto. Esiste solo anche fare sport? Esiste il rischio di avere dei cedimenti nei cambi di direzione oppure nei salti. Quindi non è obbligatorio che il ginocchio ceda. Quindi se uno vuol continuare a fare delle attività sportive, tipo il calcetto, il basket, la pallavolo, è meglio ricostruire il crociato anteriore. Se uno vuol fare un'attività tipo il nuoto o la bicicletta, può anche soprassedere. Ovviamente questo dipende un po' dall'età, nei giovani è indispensabile secondo me operarlo, e dipende anche dall'attività di lavoro che uno svolge. Allora, andiamo a Federico dalla provincia di Venezia, quindi in sostanza avrebbe fatto meglio a farsi fare l'intervento. Sì, se il ginocchio era in buone condizioni. Federico, buongiorno dalla provincia di Venezia, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e un buongiorno al dottor D'Anchieta. Buongiorno a lei. Io la chiamavo così perché volevo... grazie perché ci tiene compagnia. Volevo sapere, visto che ho una infiammazione alla bandelletta iliotibiale, sì, quale consiglio mi poteva dare? Io ho consultato un ortopedico, mi diceva che bisognava tagliare per sistemarla, mentre il mio fisioterapista di fiducia sostiene che basta una serie di sedute per disinfiammarla. Sentiamo prima un consiglio del professor D'Anchise, che però deve spiegarci che cos'è questa. Ecco, è una cosa complicata da spiegare. È una specie di, definiamolo legamento, anche se non è corretto chiamarlo legamento, cioè nella parte esterna della coscia c'è una grossa fascia che diciamo così tiene i muscoli in sede, sì, e arrivato verso il ginocchio diventa più spessa e diventa una specie di bandelletta, cioè un nastro che serve anche come stabilizzatore dell'articolazione. Questo è questa tendine, questo legamento, chiamiamolo come vogliamo noi, tende ad infiammarsi frequentemente in chi corre, perché questo movimento continuo può creare una situazione di attrito. Io prima di pensare all'intervento chirurgico penso che si debba fare un trattamento assolutamente conservativo e riabilitativo, quindi ridurre l'attività sportiva, purtroppo questo è un elemento importante, spesso per chi corre è una tragedia, però è fondamentale il riposo e poi degli esercizi di allungamento di questa zona. Esercizi di allungamento, terapie fisiche non ce ne sono? Terapie fisiche, le onde d'urto, la tecar terapia, bisogna ridurre quell'infiammazione ed è fondamentale, ripeto, il riposo. Un'infiammazione che sicuramente è frequente in chi corre e che sicuramente conosce anche il nostro ospite che vi ho già anticipato, un grande campione in linea con noi, Stefano Baldini. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti. Stefano, buongiorno. Che suggerimenti daresti anche tu al nostro ascoltatore? Di fermarsi un po'? Sì, sono in linea con le considerazioni del professore. Suggerire intervento chirurgico deve essere l'ultima spiaggia, chiamiamola così, ma la bandelletta iliotibiale è una parte delicata del corridore che va ad infiammarsi o in situazioni di sovraccarico e quindi di sovrallenamento, di sovrattività, oppure per magari una scelta di una calzatura sbagliata. Oppure anche perché non abbiamo un apparato muscolare abbastanza tonico e pronto a sostenere i diversi chilometri di corsa che il nostro amico ha fatto durante la sua attività. Stefano, quando tu dici la scarpa sbagliata, appena si nomina scarpa, quando intervisto un grande campione come te, arrivano i messaggi. Allora, come faccio ad accorgermi che la scarpa che ho scelto potrebbe provocarmi tutti questi problemi e quindi dalla scarpa poi arrivare anche a far male al ginocchio, non solamente al piede? Ma la scelta della scarpa va fatta andando da un negozio specializzato. Molti le comprano su internet oppure nei grandi magazzini, ma devono essere assolutamente atleti, persone già esperte che conoscono la propria, il proprio appoggio del piede. La scarpa deve essere scelta anche in base al peso, alla velocità che riusciamo a produrre durante un'attività di corsa. E più si corre velocemente, più si può utilizzare una scarpa leggera. Più si corre lentamente e più si è pesanti, è consigliabile una scarpa più protettiva, più morbida o meno morbida in base anche all'utilizzo del nostro piede, quanto riusciamo ad essere reattivi e rimbalzanti sul terreno. Questi sono tutti piccoli grandi accorgimenti che però alla fine risolvono un sacco di problemi, cioè li prevengono. Credo che sia importante anche valutare l'appoggio del piede o fare delle riprese nel cammino per capire quando si fa il passo, come certo. Il piede arriva sul terreno. Certo, ormai quasi tutti i negozi specializzati sono muniti di un nastro trasportatore, un tapirulan, con anche una telecamerina posteriore che va a riprendere la tua azione di corsa, registrarla e in questo modo si può anche valutare meglio qual è la calzatura più adatta a te. Io consiglio sempre, quando si va ad acquistare un paio di scarpe nuove, di portare sempre quelle che abbiamo utilizzato fino a questo momento, in modo che si possa valutare anche quello che è il tuo progresso. Stefano, la corsa non aiuta il ginocchio, diciamo che la stressa, ma aiutaci a così a dare qualche consiglio, perché chi corre bene le ginocchia le salva, no? Ma sì, questo dicono gli esperti, no? Che insomma chi corre, non possiamo chiamarli runner perché sennò c'è sempre il nostro ascoltatore che ci manda i messaggi, che ci sgrida, ma insomma diciamo che sollecitano molto questa articolazione che, come dice il professor D'Anchise, sta insieme ma sembrerebbe non essere fatta per stare insieme, è un po' complicata, ma, no? Spesso e volentieri cosa succede? Succede che molti vanno a correre da zero, cioè da una situazione di sedentarietà, e quindi non abbiamo preparato il nostro apparato muscolo-scheletrico a sostenere gli appoggi e gli impatti della corsa sul terreno, quindi quello che si può dire è che dobbiamo prepararci, ovvero anche fare un po' di esercitazioni, ma non necessariamente andare in palestra, ma fare anche delle esercitazioni a corpo libero. Oggi sui motori di ricerca video si trovano tantissimi esercizi che si possono fare anche in casa, utilizzando uno di quei percorsi vita che ci sono nei parchi di tutte le città. Voleva intervenire, professor? Stavo pensando che è importantissimo anche fare degli esercizi di stretching. Per esempio, il tendine d'Achille è uno di quelli che viene sollecitato moltissimo nella corsa, e spesso io vedo pazienti che hanno delle tendinopatie perché non fanno degli esercizi di allungamento fondamentali per questo tendine. Stefano, allora, si corre tutto l'anno, ma questa è la stagione dello sci. Allora, mi chiedevo se la corsa può essere considerata, la metto un po' tra virgolette, una sorta di allenamento e di preparazione allo sci. Un tempo c'era la prescistica, no? Adesso non certo. Sembra che sia andata fuori moda. Ma insomma, una persona che corre con regolarità è in qualche modo più preparato al lavoro che verrà richiesto sulle piste? La risposta è sì, perché comunque sono sollecitati nella corsa molti dei muscoli che vengono utilizzati prevalentemente nello sci, e per chi fa il fondo addirittura l'attività di corsa è molto aerobica, e quindi il fondo lo è a sua volta, e sono tanti quelli che d'estate fanno un'attività di corsa, di ciclismo, che d'inverno si trovano molto molto bene anche sulle piste da sci. E non trascurerei comunque in una fase pre-sciistica il potenziamento di alcuni distretti muscolari come il quadricipite, e sono d'accordo anche con il professore quando dice che bisogna sicuramente fare anche molto stretching. Tante volte abbiamo 40 minuti di tempo e 40 minuti li dedichiamo tutti alla corsa, 5 minuti di stretching attivo prima di cominciare a correre, fare mezz'ora e fare 5 minuti di stretching dopo vale sicuramente di più come allenamento che un 40 minuti di corsa continua. Ecco, non è assolutamente una perdita di tempo. Stefano, no, prima di salutarci, l'asso nella manica del campione? Ma l'asso nella manica del campione è quello sempre di essere graduali. a qualsiasi velocità e a qualsiasi attività andiamo a intraprendere. Cioè, la troppa fretta alla fine ci fa commettere degli errori che poi sfociano in problematiche come quelle della sindrome della bandella tirotibiale. Grazie Stefano Baldini per essere stato con noi, ti aspettiamo anche qua in studio. A voi, a presto. Un abbraccio. A presto. Allora, molti ascoltatori mi stanno segnalando al 349-238-6666 che il menisco non ce l'hanno più. Altri mi chiedono di occuparmi e di chiedere a lei, professor D'Anchise, che cosa ne pensa del tutore. Arriviamo subito, però ho Massimiliano che ci sta aspettando. Sentiamo Massimiliano e poi parliamo del tutore, parliamo... Posso dire solo una cosa? Lei è l'ospite. Facciamo tornare di moda la prescistica. Questo è un appello del professor D'Anchise, no, e non perché lei ha una palestra. No. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho un problema al ginocchio, nel senso sono stato operato due volte, tutte e due le volte al crociato anteriore, la seconda volta mi è stato rimosso anche il menisco. Quindi ho un'artrite abbastanza sviluppata. La mia domanda era questa. Per fare sport... ho sentito parlare di ginocchiere che allontanano la tibia dal femore, in maniera da non sforzare molto l'articolazione sul contatto. Allora, e... quanti anni hai innanzitutto? 42. Allora, lo strumento, definiamolo così, a cui fa riferimento lei, è uno strumento che serve, diciamo che tra virgolette sì, se ne sta parlando parecchio, non è ancora definito, nel senso che non si usa da tantissimo tempo, comunque è uno strumento sì che tende a mantenere, è un intervento chirurgico, non è un tutore, bisogna sistemarlo chirurgicamente, posizionarlo chirurgicamente, è uno strumento che tende ad allontanare i due capi, quindi ridurre un pochino l'attrito che ci può essere, vale solo però per il ginocchio varo, cioè per le gambe tipo cavallerizza o insomma. Un po' da giocatore. Un po' da giocatore, esatto. Quindi bisogna vedere l'indicazione come al solito in queste situazioni. Allora, il nostro amico ha detto ho l'artrite, in realtà artrosi. Si riferiva all'artrosi, che è un sono qualcosa di diverso. Ite di solito l'infiammazione. Diversamente dagli anglosassoni, per loro artrite è tutto. Per noi invece noi artrite, che siamo più precisi, diciamolo. L'artrite è una infiammazione o infezione, a seconda delle lesioni. Artrosi è l'usura della cartilagine. Allora, a proposito dei messaggi dei nostri ascoltatori, abbiamo parlato di cartilagine, abbiamo parlato anche di menisco, adesso si tende a risparmiare il menisco quando quando si può ripararlo, ricucirlo, certo, insomma. Certo. E un tempo però si toglievano con una certa disinvoltura, certo. Mi passi il termine. Ecco, adesso il menisco non c'è più e io che cosa faccio? Niente. Adesso che avete capito che sarebbe stato meglio tenerlo, purtroppo niente, o meglio, in alcuni casi quando comincia la sintomatologia dolorosa in pazienti giovani si può fare il trapianto di menisco, un trapianto da banca che dà dei risultati buoni. Non ci dà un menisco normale, quindi non dobbiamo pensare che è risolto il problema, però certamente può essere una strada. E l'altro elemento, evidentemente, specialmente per il menisco esterno, questo secondo me è importante, il menisco, abbiamo due menischi, uno nella parte interna e uno nella parte esterna, il menisco interno insomma va abbastanza bene nel tempo, il menisco esterno invece è cattivo, quando lo si toglie l'articolazione si usura molto rapidamente, quindi nei ragazzi giovani, quando purtroppo questo deve essere fatto, teniamoli sotto controllo, perché alla comparsa dei primi segni vale la pena di pensare a un trapianto. Dei primi segni che sono? Dolore. Ricordiamo, dolore e gonfiore. Dolore e gonfiore. Adesso noi andiamo a sentire i segni che ci dà la borsa e poi ritorniamo subito dopo con il dolore al ginocchio, classicamente si dice così, ma c'è dolore e dolore, e quindi oggi ci concentriamo su questa articolazione. Sentiamo il professor D'Anchise che consiglia da dare per chi è stato, magari ha avuto una lesione del menisco o un problema ai legamenti, che se e cosa si può fare per mantenere più stabile possibile questa articolazione e per non pagare pegno. A tra poco. Cuore e denari. Tu me metti gli altri uomini in ginocchio. Tu metti gli altri uomini in ginocchio. Tu c'è abbastanza per restarci sotto. Tu metti gli altri uomini in ginocchio. No, io metto il ginocchio negli altri uomini. E siamo tornati insieme oggi in studio con me il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Siamo partiti dalla neve, dallo sci. Il siamo ginocchio, arrivati alla corsa. Ecco, è un'articolazione molto sollecitata. Siamo arrivati alla corsa e adesso la guardiamo dentro questa articolazione, no? Che ci dà così tanti problemi. E ci occupiamo oggi in modo particolare di due strutture del ginocchio che, per traumi anche banali o per l'effetto degli anni, possono lesionarci e quindi metterci in difficoltà. Cerchiamo di capire se e come si può risolvere il problema. 800 24 00 24. Professor D'Anchise, abbiamo parlato di menisco, ma la lesione provocata dall'usura dà gli stessi sintomi di quella da trauma? Allora, come dolore localizzato, sì. La fondamentale differenza è che il trauma rompe il menisco, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, nel contesto di un tessuto sano. Il menisco si può rompere anche senza trauma perché si usura come si può usurare una stoffa, che noi facciamo lo stesso movimento che abbiamo fatto mille volte, la camicia si rompe perché si è consumata. Questo è molto importante però, perché mentre la lesione traumatica deve essere operata, o si porta via o si ricuce, quello che si riesce a fare, la lesione da usura invece molte volte tende a guarire spontaneamente. Quindi, in presenza di una lesione da usura, attenzione, non partiamo subito con un'indicazione chirurgica, perché c'è una possibilità di guarigione spontanea. E poi inoltre l'intervento, che di per sé è un intervento banale, artroscopico, quindi poco aggressivo, nelle lesioni traumatiche dà dei risultati brillantissimi, rapidamente si riprende una vita normale. Nelle lesioni da usura diciamo che abbiamo un 15-20% di pazienti che fa fatica a recuperare, che può avere una persistenza di dolore e in qualche caso, specialmente se è presente un po' di usura della cartilagine, ci può essere addirittura un peggioramento dei sintomi. Quindi dobbiamo fare attenzione a farsi operare immediatamente, perché la risonanza ci fa vedere il menisco consumato. Questo mi consente di fare un'osservazione. La risonanza magnetica ha evidenziato una patologia che prima non conoscevamo, che è la sofferenza della parte finale dell'osso, che si chiama osso spongioso, perché se lo tagliamo sembra essere una spugna. Questo può andare incontro ad una patologia, adesso lasciamo perdere il perché e per come, che non si manifesta immediatamente alla risonanza magnetica, ma si manifesta almeno 3-4 settimane, anche di più, dopo la comparsa dei sintomi. Quindi dobbiamo fare attenzione quando abbiamo un dolore sine causa, senza un motivo, che non sia questa patologia, che ovviamente immediatamente non possiamo vedere. Se io faccio una risonanza magnetica a 50 persone di 60 anni, dico, per dire, avrò certamente un menisco un po' consumato. Se si viene, se si decide di intervenire perché la risonanza magnetica mi dà questa situazione, magari si commette l'errore, perché quella magari non è la patologia, ma la patologia potrebbe essere questa edema dell'osso. E che ha bisogno di un periodo finestra per dopo i sintomi. Quindi abbiamo male, mi dica se ho capito, ho male al ginocchio, vado senza un motivo, aspetto un po', allora, certo, a fare la risonanza. Si può fare, perché però bisogna sospettare e non decidere subito di fare l'intervento chirurgico, ma se non c'è una situazione drammatica aspettare almeno un mese prima di decidere. Allora rispondiamo a un ascoltatore che mi scrive: ma il dolore da sforzo o il ginocchio che a volte mi cede, cosa devo fare? E forse ci permette anche di parlare di questo famoso tutore che molte persone a cui si affidano. Bisogna distinguere il cedimento che avviene senza dolore oppure il cedimento che avviene perché uno ha male e blocca l'articolazione, ha la sensazione che l'articolazione non funziona, ma non è che l'articolazione non funziona, è il dolore che ha creato il cedimento. Dal vero cedimento, il vero cedimento può avere due cause fondamentali. una, come dicevamo prima, la rottura del crociato anteriore, in un cambio di direzione o in un salto il ginocchio può cedere, l'altro, che è una patologia molto frequente, specialmente nelle donne, ahimè per voi, ed è quella della, tanto siamo abituati, della vale, patologia siamo... della rotula, una certa instabilità della rotula che è un'alterazione congenita. In questo caso il tutore può avere una sua funzione. Io personalmente non lo ritengo realmente utile nelle altre situazioni, se non per il fatto che diciamo avere intorno al ginocchio qualche cosa fa sì che noi si presti più attenzione a questa articolazione e quindi si riduca anche il movimento, insomma facendo più attenzione si può avere un po' meno male. Attenzione però che l'utilizzo del tutore diventa un condizionamento psicologico molto importante, senza ci si sente persi. Allora, Mauro, 53 anni, crociato anteriore rotto a 17 anni per incidente in moto, ci scrive che ha sciato senza tutore fino a pochi anni fa, ora gli fa male ma il ginocchio non si è gonfiato e allora le chiede, professor D'Anchise, posso continuare senza fare alcun intervento? Beh, direi proprio di sì, direi che a questo punto dopo tanti anni non è ragionevole fare l'intervento. Ecco, non ho detto una cosa importante: l'unico modo per poter sopperire in parte alla mancanza del crociato anteriore è avere una muscolatura validissima, quindi grande rinforzo muscolare, evitando le attività a rischio come dicevamo prima. Questo è l'unico modo per poter sperare di resistere senza avere cedimenti. Andiamo a Roma, c'è Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo porre questo problema al professore. L'anno scorso, sciando, sono caduto con torsione del piede, il sci non si è staccato dallo scarpone, ho avuto una lesione del tendine d'Achille, cosa che mi dicono che è anche raro in attività sciistica, che avvenga una lesione del tendine d'Achille. L'ho trascurata la faccenda, anche perché poi è regredito un po' il fastidio, il dolore, e adesso me la trascino, diciamo, da un anno questa faccenda, e nel frattempo ho ripreso a camminare regolarmente, ho solo un lieve risentimento al piede, nella zona del calcagno, diciamo, del piede. Qual è la domanda? La domanda è questa: posso tornare a sciare magari con un tutore, o rischio che questa lesione diventi che da subito tale? Allora, totale. Immagino che lei abbia fatto un'ecografia o una risonanza magnetica che ha dato delle informazioni in relazione alla lesione del tendine. Diciamo che concettualmente lei può tornare a sciare, e attenzione, se si rompe il tendine di Achille, si rompe di solito perché ha una consistenza alterata, quindi se si dovesse rompere non è perché lei è andato a sciare, si può rompere in qualsiasi momento e qualsiasi occasione. Ci scrive Sergio al 349-238-6666. Sono utili le infiltrazioni? Di che cosa parliamo? Penso che Sergio parla di infiltrazioni. Ci permette anche di dire di che genere sono. Allora, abbiamo adesso una quantità infinita di infiltrazioni. Ci sono le infiltrazioni di cortisone, infiltrazioni di acido ialuronico, infiltrazioni di PRP, cioè il sangue che viene trattato in un certo modo, si raccolgono delle piastrine e viene infiltrato con il residuo, diciamo, di questo sangue. Quindi dobbiamo cercare di inquadrare il problema. Il cortisone oggi come oggi viene utilizzato molto raramente. L'acido ialuronico è utile in determinate situazioni, attenzione che però non è dimostrato che riproduca la cartilagine. Io dico sempre che diventa un lubrificante. Un lubrificante, sì. Nel senso che se noi abbiamo un ingranaggio arrugginito, gli mettiamo dell'olio, l'ingranaggio magari riparte, però quando l'olio ha finito la sua funzione, l'ingranaggio di nuovo va in crisi. E lo stesso vale per il ginocchio. Io dico sempre ai pazienti che le infiltrazioni sono un po' come giocare alla roulette sul rosso e sul nero, può andare bene e può andare male. Esiste, questo dobbiamo anche ricordarlo, quindi anche qui bisogna avere buon senso, un minimo rischio di infezione nel fare le infiltrazioni, quindi usiamo 1 su 10.000, per amor del cielo, però usiamo buon senso anche nell'utilizzo di queste infiltrazioni. Allora, è a questo secondo lei che si riferisce il messaggio di Claudio? Mio figlio 25 anni, rugbista, lesione al legamento, consigliano innesto piastrine, è la cosa giusta? Beh, adesso è molto vago, nel senso che se ha una rottura del crociato anteriore, l'innesto piastrinico non ha nessuna utilità, perché il legamento crociato anteriore, quando si rompe, è come se finisse, cioè non c'è la possibilità, per il suo apporto vascolare non si può riattaccare come l'osso, l'osso basta immobilizzarlo e guarisce, invece in questo caso no, per cui faccio fatica a immaginare, anche se qualcuno per un certo periodo di tempo ha fatto l'intervento aggiungendo anche questi innesti di piastrina nella speranza che il neolegamento possa rivivere meglio. Allora, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Se state andando in montagna, sentite, ma subito dopo chiamateci 800 24 00 24. Andiamo poi a Milano con Angelo e torniamo a Roma per Paola tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Cuore e denari. Ritornerò in ginocchio a te. L'altra non è. Però per tornare in ginocchio bisogna avere le ginocchia buone, professore. Eh sì. Paola, buongiorno, ci chiama buongiorno. Da Roma. Ha mai ricevuto una dichiarazione d'amore in ginocchio lei? Tanti anni fa. Vede, però tanti anni fa, ma lei sì, io mai. Io l'ho fatto a mia moglie. Lo so, questa vede che gliel'ho servita su un piatto d'argento. Ecco, lei l'ha fatto, vabbè, però. Al ristorante era imbarazzatissimo. Paola, eccoci qua. Sì, dunque, io ho un problema a tutte e due le ginocchia. Bene. Devo dire che ho avuto diversi incidenti con le ginocchia, perché sono scivolata sulle scale, ho battuto i gradini, tutte e due le ginocchia, facendo una lesione al ginocchio sinistro, alla rotula sinistra, e una frattura del menisco destro. E poi anche sciando ho avuto la torsione. Insomma, come ne ha fatte. Quanti anni ha, signora? Ne ho 72. Sì. Dunque, e la domanda qual è? Cosa? La domanda? Domanda è questa. Ultimamente, soprattutto se cammino, che mi affatico un pochino, eccetera, il ginocchio di destra, ma lateralmente, sulla parte laterale, sì, mi fa molto dolore. Mi fa dolore. Sì, ha fatto degli accertamenti. Nella parte inferiore della gamba. Sì, signora, ha fatto degli accertamenti, radiografie. Io ho fatto sia la risonanza magnetica che probabilmente si tratta di una situazione di tipo artrosico. Quindi io sì, dunque mi hanno detto che è una questione di tipo artrosico, sì, alla quale si è aggiunta i danni. Certo, insomma è una cosa stratificata. Beh, un consiglio allora, per Paola? Diciamo che se la situazione è nettamente invalidante bisogna pensare alla chirurgia, se non è invalidante terapia antinfiammatoria, applicazioni tipo TECAR terapia, ultrasuoni, laser, ed eventualmente questi sono i casi in cui un'infiltrazione potrebbe dare un beneficio, sempre con il concetto della roulette. Angelo da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi chiamato, grazie professore. 66 anni, ho sempre fatto corsa fino a un anno fa, poi ho cominciato a sentire dolore al ginocchio sinistro, ho fatto risonanza magnetica un anno fa e non c'era lesioni dal menisco, ho rifatto la risonanza magnetica recentemente e hanno diagnosticato una lesione di primo grado al legamento laterale mediale. Mi hanno consigliato di non fare nulla, di fare biciclette, di non fare sforzi. Allora professore, sì, se l'è cavata, sì, insomma. Io farei una distinzione che è importante. Se si ripete una risonanza magnetica, è corretto fare la risonanza magnetica nello stesso posto dove lo si è fatta la prima volta, perché anche macchine diverse possono dare delle immagini diverse. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, io credo che sia più un problema di un'iniziale usura della cartilagine. Il legamento collaterale si può rovinare, può rompersi anche in maniera modesta, ma per un trauma, senza un trauma è difficile. Allora, abbiamo parlato di ginocchio, abbiamo iniziato la puntata con il ginocchio dello scrittore, in fondo, no? Che è quello a cui faceva riferimento in un certo senso Jerome. E adesso è arrivato proprio il momento di scrivere, ma prima ascoltiamo, perché come sempre in questo Fino al 24 scriviamo una favola nella favola con Andrea Vitali. Tra l'altro ogni giorno verrà selezionato dalla redazione il contributo migliore per costruire una favola nella favola sul podio. Sul nostro sito potete vedere il podio del weekend. Continuate, mi raccomando, a scrivere, a partecipare. Adesso andiamo a sentire il contributo di oggi. Voilà. Cinque le vocali che fioriscono nelle aiuole. Sei tu, sei la neve che mi abbaglia più del sole. Sette sono i giorni per far una settimana. Otto volte russa il nonno sopra l'ottomana. Erano passati sei giorni dall'arrivo delle renne nel paese di Babbo Natale. Il silenzio perdurava sopra la sua casa e soprattutto sopra il suo laboratorio, sempre più pesante, incombente, maleaugurante. Che Natale sarebbe stato quello senza nessuna lettera, senza nessun regalo da portare a ciascun bambino del mondo? Risposta era nel cuore di tutti. Non ci sarebbe stato alcun Natale. Natale sarebbe stato un giorno uguale a tutti gli altri. Verso sera però accadde una cosa. L'udito delle renne, che percepiva il rumore di un meteorite in avvicinamento a distanza di chilometri e chilometri, fu il primo dei cinque sensi ad accorgersene. Tutte insieme levarono gli occhi verso il cielo di un nuvoloso grigiore compatto. In un piccolo punto di quella grigia immensità, piccolo ma preciso, la cortina di nubi sembrò aprirsi per fare strada a qualcosa. Ah, qualcosa o qualcuno? Neve fiocca, l'orologio scocca, la mezzanotte, buon Natale a voi, rotola. A qualcosa o qualcuno? Adesso tocca a voi. Intanto imparatevi questa filastrocca, questa conta che si canta, perché domani la cantiamo insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ringrazio il professor D'Anchise per essere Grazie stato con noi, per averci sostenuto in questa giornata di Sant'Ambrogio. Noi torniamo domani, noi perché torna anche Deborah, Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Grazie per averci ascoltato e per essere stati con noi. Vi aspettiamo domani, sempre alle 10:30. Buon pomeriggio da Nicoletta.